Questo CD offre in modo sintetico allo studioso le idee forza del sistema di vita islamico, la conoscenza delle quali è sicuramente necessaria per vedere nella giusta prospettiva le realtà dell'Islam e per comprendere l'ordinamento islamico della vita nella sfera dell'individuale e del sociale, come pure nella sfera del privato e del pubblico. E ciò perché ogni istituzione possa essere studiata nel reticolo concettuale della visione islamica del mondo e del codice di vita dell'Islam. E la lode appartiene ad Allah, rifulga lo splendore della sua luce, il Signore dell'uomo e il padrone per diritto di creazione di tutto ciò che esiste nell'universo.